costruendo, facendo, sperimentando qualcosa, impara anche. Capito? Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti sul canale 5, c'è qualcuno che vuole entrare? Ciao Sandro! Sempre all'attacco tu, eh! Non ho capito adesso, non ho capito, sei arrivato basso adesso. Chi è? Grazie, hai capito? Vieni avanti che non ti ho capito neanche io. I due da Porto Torres, così è. Sta arrivando con una radio molto soffocata, non riesco, o mi sono dimenticato la modulazione, non ho capito chi è, forse è coso, ma non sarà motrice pazza forse, attento, motrice pazza sì. Sta uscendo con una radio un po' tutta impazzata, non si capisce bene. A Bottottore, c'è Eugenio, c'è un altro che è Franco, Gianluca, Sandro sicuramente, ma che poi Sandro non ha problemi, Sandro mi arriva bomba sempre, qualsiasi posto che si trova, non ho capito, grazie alla modulazione, non ho capito quello che ha detto, non riesco a sentirlo bene, riprendi grazie, tu forse non riuscirai a tirarlo fuori meglio di me. Non si credere, no, lo sento soffocata anch'io. P2 mi sembra, vieni avanti che non ti copio bene, non sei chiaro con la radio. Ehi, adesso ti ho copiato, Eugenio P2 di Porto Torres, Giulio. Salutoni, aspetti il rilascio a Giulio, lo copi Giulio adesso. Sì, adesso in questo passaggio ho capito, ma sta facendo male il radio, Luigi, ciao Luigi, salutoni. C'è anche Gianni Capridue da Muro, vediamo se lui ti ha ascoltato, ma sarà difficile, perché mi sta arrivando più basso e anche male il radio, tra l'altro. Avanti Gianni Capridue. Qualcuno entrerà, qualche argomento lo tireremo fuori, saremo a vedere. una mezz'oretta già possiamo trascorrere. Vabbè, è stata una settimana bella, tranquilla, no? Senza nessuna cosa, una settimana di divertimento e ciccia. Va bene così, ogni tanto bisogna fare anche quello. Avanti capri due. Allora, mi stavi dicendo, Boccarsi, che te hai comprato altri baracchini, ma ci fai sapere quanti ne hai adesso di questi baracchini tu? Okay, io adesso ho giù, stasera diciamo che ogni tanto faccio pulizia nei capitoli, pulisco quelli che c'è in casa, nel coso mi ho 13 sulle porte mobiliari, mi ha detto prima che salga lo spiro di Guglio Pellegrini. Poi dovrei passare all'armadio, mi sa come troppo uno, poi c'ho gli altri in garage, ne ho più, non hai capito. E niente, però è una cosa, non lo so se ci riprendi tu, perché i miei figli so che non gli frega nulla, non gli piacciono così. Non so poi di tu cosa ne fai, spesso, se sei qualche appassionato in casa, no? E io, hai capito, sono fatto così, mi piace a comprare quando sono in vita, poi se vuole si riprenda, riprendi, grazie. Ehi, infatti, se uno c'ha la passione, già è bello. Vabbè che l'altra volta sono andato lì al Pinocchio, cosa si chiama, Giulio, erano due bandelli di aerei militari, tutti attaccati con delle mollette, ma di suicio, sono tre bili l'aereo, e l'aereo balla a passi giusto, modellini, ma lo sai che belli, tutti aerei di guerra, antichi, i primi aerei, capito? Guarda, girare che a casa mi si chiudava con le moglie, due pannelli enormi mi erano. Cioè, cosa ti posso dire? Da un lato c'era come distanza a mezzo centimetro, tutto modellini, belli erano belli, ma per mettere quelli ci vuole spazio. Beh certo, ma ci vuole anche passione per avere passione nel modellismo di qualsiasi genere, dai, non solamente. Sì, ma è così, grazie, certo. No, io no, non compaio niente, non me ne frega niente. Mi va bene tutto quello che ho, tranquillamente, e ce n'è anche l'abbondanza. Se noi non diventiamo collezionisti, veramente, già basta mia moglie che collezionista di tassine e di servizi, eccetera, e di bicchieri di un certo pregio, figurate un po' così, mi bombe un bue a collezionare, già mi bastano quelle che ho, anzi da qui dal tavolino me ne ho eliminato esattamente un po', me ne ho eliminato, ne ho solo tre a portata di mano, anzi due baracchini e una e più il K e basta, poi, ripeto, non sto usando un po' che niente, qualche volta ascolto così, però lo accendo sempre, lo accendo la mattina appena mi sveglio, lo accendo, e vabbè, adesso era un po' di giorni a riposo, ma non è niente di particolare, la mattina già lo accendo, ma la tengo a basso volume, non sento niente, così, solo per farlo scaldare più che altro, non mi interessa altro, capito? Stavo dicendo, qui io mi sono tenuto il Galas, mi sono tenuto, poi ho un Cobra, la stazione base e basta. Gli altri me li sono conservati, perché intanto è inutile averne tante davanti. Vabbè, ogni tanto magari li tirerò fuori, li accenderò proprio per non, no, proprio per dire che li accendo, non niente di più. Ma non me ne frega più di tanto, vanno bene questi. Tanto io preferisco il Galaxy 2 a tutti gli altri, anche se devo dire che ne ho qualcuno bellino e devo dire che il Cobra va benissimo lo stesso, che quello tra l'altro gli ho fatto una modifica, tieni capo 2, a quello gli ho fatto una modifica, gli ho fatto, no? Siccome è un vecchio intercanale, no? Uno di quelli antichi, vintage, e gli ho messo una quartiera, avevo un po' di quartiere, ne ho ancora un bel po' di quartiere di varie frequenze, e sono riuscito a portarlo da 23 canali a 37, ho trovato una rivista di qualche anno fa, ho visto lo schemino, ci ho provato e mi è riuscito. diventati 37, da 40 non ci sono arrivato, forse ci voleva qualche altro quarzo diverso, non lo so. Comunque è andata bene la modifica. Dai, riprendi Gianni. Ho toccato una volta al capito il max 21 a 46 canali avevo fatto e passa lì a chiudere, non so altri avevo fatto da un vecchio relè, mi avevo attaccato i due quarti al capito giù e facevano passare l'apparecchio al capito in più dopo il 23, quindi quello ho fatto. Ho prelevato, come si chiama, i collegamenti dove pensavano gli altri due quarti, no? E dove c'erano i quarti, quei quarti li ho portati a relè anche negli altri, quindi avevo sfruttato poi per far scattare i relè i 12 volti dell'apparecchio con l'interruttorino del PA. Quando facevo scattare l'interruttorino arrivava la corrente a relè e lo portava negli altri, come scattava negli altri quarti. Era una bella cosa, andava benissimo, però poi giù, per non per l'originalità, l'apparecchio l'ho ritornato com'era. Ce l'ho ancora e attaccati a relè. Capito, è andato alla grande, 46 canali era. Ok, come il baracchino di una volta, dai, di diversi anni fa, che prima 23 e poi sono diventati anche 46 canali, sì, va bene così. E adesso quando incomincia a cambiare il tempo, a fare un po' tempo volo, vado e mi cambio anche l'antenna, così almeno la sistemiamo una volta per tutte. Questa antenna, perché sembra un carciofo con questi radiali che mancano, sembra un'antenna invalida, mamma mia, il cavo poi non ne parliamo, il cavo addirittura è mezzo bruciacchiato, che qualche annetto fa stavo asfaltando sul tetto, stavo asfaltando il cordolo eccetera, e col bruciatore non me ne sono accorto, ho mezzo bruciacchiato il cavo, allora gli ho messo del nastro solante, ho messo un lavoro da certosino naturalmente, ma nel momento non è che potevo fare diversamente. E poi questo momento è diventato che sono passati anni ed è sempre così. Vabbè, dai, grazie, appena che migliora il tempo ci cambiamo l'antenna, sia tu che io, bene va. Sì, andrò già mal vento, la mia pari una scoppa tutta rossa, la Befana sembra, tutta brucia male, un radiale, tutta roba, l'uso bubbiato, rimasto un tirante, miracolo che ancora sopra, sì, guardate che sono cazzato, ci sono i bulloni, tutti bruciosi, di due bulloncini, di quattro bulloncini delle scarpe. Ha detto, guarda che coppia di aiuto ne va a terra. No, adesso mi dubbi segni invece, addirittura di farmi il palo, tipo palo ascensore, no? Cioè un tubo quadrato, grazie, con un altro pezzo di tubo senso quadrato che scivola lungo il coso, con una manovella in modo che non abbasso più, che sono come se era diventato anzianotto e allora non me lo fa fare nessuno a fare certi sforzi, invece con una manovella mi porto l'antenna alla testa di uomo, capito? Ed ero intenzionato a fare quello, tanto lo so cosa vado tra lì, e stavo pensando l'altra volta, da almeno 20 giorni fa ci stavo pensando quasi quasi in vostro ascensore, me ne vado in bottega, solo stavo pensando che questo palo, siccome è lungo 6 metri, no, quando lo compro, ci vuole un motocarro per portarlo in bottega e poi ci vuole un altro motocarro per portarlo qua, una volta che ho fatto tutto il lavoro eccetera. Insomma, non è che è molto conveniente, devo dire la verità, perché un motocarro per venire qua vuole 30-35 euro e altri 35 ne vuole per andare in bottega sono 70. Se che tu mi immagini quanto mi gusta andare su un baro. Per dire no. Tu mi dirai, non so niente di 60 euro, vabbè, potrei anche spenderli per carità, ci mancherebbe altro, ma per dire no, non so fino a che punto ne vale la pena, capito, grazie. Vabbè, non c'è un amico lì che c'ha un furgone, non so, una dottoressa lì alle Turchi, oppure lì via lo Cercirri, anche al bombolaio, all'amicucciolo, te lo può portare lui anche, va? No, ma ti sembra che vada a chiedere il coso, il favore di trasportare, per preferenza chiamo Ignazio, chiamo e me lo faccio portare da lui, e gli dico, no, 30 euro, adesso una furti, non è quello il problema, ma per dirti no. Non lo so, 30 da Macedo a Bottega, poi da Bottega qua, quando sarà fatto tutto, e sono già 30, 60, o se no addirittura 70, perché mi sembra che vuole 30, 35 euro, se ricordo bene Ignazio, perlomeno così mi aveva chiesto la volta che avevo chiesto un po' di materiale per edilizia, per qua, per casa, mi aveva chiesto, mi sembra 30 o 35 euro un viaggetto, vabbè, comunque non è un problema, anche loro devono guadagnare per poter sopravvivere, ci mancherebbe altro, non è che guardo quelle cose lì, io non me la funziono, io sono sempre per il lavoratore. Avanti Gianni Capri 2. Ok, è così, grazie, bisogna fare girare i soldi, hai capito, se no guai, che sarà che andiamo a finire. Ok, ma quale apparecchio sei usato, grazie. Io Lino Ricci, 40 canali sotto, 40 canali sopra, AMFM. Ok, no, perché stai arrivando discretamente, se mi sei venuto da te, che sei usato il campo, tu quello stai usando, di un campo stai usando. No, sto usando il gara, se sto usando, no, lo uso qualche volta a K, solo per farlo funzionare 10 minuti, poi basta, lo tengo solo per ascolto, capito, no, non è il caso, va bene il barattino, capito, già, tanto più che mi dicono che la modulazione è anche migliore questa, ma a parte il discorso che quella là è molto più forte come segnale, però non me ne frega niente a me del segnale, a me basta che mi sentano, che se ne frega. Con la modulazione, con questa dicono che è più bella, più squillante, col baracchino, mentre invece col K è tutta un'altra modulazione. Va bene lo stesso, mi dicono che è ugualmente buona, non ci sono dubbi, che è bella anche quella, però preferiscono anche stamattina, ad esempio, parlando con K2, io ho sentito K2 stamattina, ci siamo salutati dopo un bel po' di tempo, e anche lui mi ha confermato che le piace di più la modulazione con quello col baracchino, e cioè come sto usando adesso, che col K, no, perché sinceramente stamattina l'ho acceso per farlo scaldare e lo stavo usando, 10 minuti l'ho usato o di più, poi ho subito cambiato, capito? E dunque va bene così, non è un problema. Avanti Grazia. Ehi, ma già sta facendo benissimo, la voglia, la voce è bella squillante, sempre bene stai uscendo. Capri 2 che ogni tanto si trasporta un poco di rumori, non è che lo senta forte forte, ma già ti capisco, già ti sento ugualmente. Io non lo aspetto stasera per farlo funzionare, in quanto è sempre fermo, perché non avevo fatto un banco giù, per cui l'ho dovuto attendere per farlo funzionare, perché è stato usato un po' di HP e capito i luisti e niente, sono altro che è sempre fermo lo stesso, il conto, le cose è sempre fermo, e la mira adesso uno, hai capito, se non questo, se lo faccia funzionato. Ok, no, io lo uso pochissimo, la verità, lo uso solo per ascoltare, o quasi esclusivamente per ascoltare, però ogni tanto metto un microfono, tanto è vero, anche in questo momento ad esempio è acceso, però addirittura il microfono è staccato, non ho più senza antenna, senza niente, dunque perché io devo fare quel lavoro lì, no, spostare l'antenna, per poterlo utilizzare, mentre invece lo accendo così perché è meglio accenderlo, non si sa mai, capito? Tanto ce l'ho sul tavolino qua, qui è tutto collegato in un'unica ciabatta, tra l'altro la ciabatta autocostruita, mi sono comprato una di quelle scatole portafrutto, no? Portafrutto, frutto si intende prese, interruttori, pulsanti, tutte queste cose sono frutti, no? E mi sono autocostruito la ciabatta a 6 posizioni, c'è anche l'interruttore tra l'altro l'interruttore illuminato, facendo tutto questo dalla presa del comodino. Lì nel comodino mi sono messo l'interruttore, mi sono messo come l'interruttore dell'impianto elettrico, della luce qua, no? E io quando tocco quello si accende tutto, capito? Perché? Perché quello che c'è nel tavolino è tutto collegato. Perciò anche quando sto usando il barattino, ad esempio, se io aumento il volume, ad esempio, mi sentirà difficile. Ecco, adesso l'ho abbassato, capito? Ed è sempre acceso, qui il capo è sempre acceso, uguale insieme a tutte le altre cose, capito? Non ci sono problemi. Ma solo esclusivamente per farlo scaldare, il resto non mi interessa. Avanti, grazie. Però li fai scaldare, se non li adopri, si rovina, dunque... Ogni tanto già fa bene a farle scaldare, per dirti, ieri stavo usando il California, a oggi sto usando l'Inuiti, stamattina o ieri mattina ci avevo tutta la mattina lo Zodiac acceso e ho fatto andare quello quasi fino alla una, dunque... Ok, certo. È meglio. No, tanto più che è tutto collegato, grazie a qua. Dietro il tavolino c'è questa ciambatta, lì sono tutte le spine, tutte attaccate. E il filo della ciambatta è attaccato alla presa che c'è qua dietro il comodino, in camera mia, no? E però ho messo per far funzionare quella ciambatta, ci ho messo l'interruttore, ci ho messo anche, no? Perché intanto il frutto qui è a tre posizioni, a tre spazi, no? In uno c'è la cosa, la presa, nell'altro c'è l'interruttore che mi accende il tavolino e l'altro che mi accende la luce della stanza, capito? Cioè se io mi dovessi alzare la notte tocco quello e si accende la lampada, no? Si accende. Poi naturalmente c'è anche l'altra che accende il lampadario, tutto lì, ma quello non ce l'ho nel comodino. Dal comodino mi accende solo la lampada per la notte, eccetera. Capito? E quando attacco quello si accende tutto, cosa sto lì a staccare, non me ne frega niente, la conduta acceso e basta. Tanto mi abbiamo fatto solo quasi 200 euro di corrente elettrica, proprio ieri ho ricevuto la bolletta, 196,50, una cosa del genere. Sì che lunedì la paghiamo, nessuno va bene da più. Capito, grazie, non è un problema. Avanti, capri 2. Poi il corno del K è che ogni tanto vuole acceso, se non guai, adesso se va a andare il corno del microfono, sì, per la giusta, lo fa poco, altrimenti bisognava tenerlo in diretta, adesso c'è poco, se la portiamo e per la grande, pensavamo quasi 70 parti, parlando, e ho visto che funziona bene, come dicevo, va benissimo, e non so neanche se abbiamo verificato l'antenna, vi ascolto con una telefonata, però ce ne sono pochi, dirò, cantando giù così la stazione base, qui, allora ce ne sono 18 apparati, e qui. Ok. Vabbè, comunque, va bene. Stavo dicendo, però la radio non è molto chiara, regola, perché la radio non è molto chiara in questo momento, forse deve regolare, non so, ma che non lo so, insomma, vedi tu, perché no, è un po' compressa, è un po' brutta, insomma, ecco, non è molto bellissima, cioè ti ho sentito in altri momenti molto, ma molto meglio del radio. Confermi, grazie. Sì, adesso già è migliorata, però non è la posizione migliore ancora, non è il meglio, diciamo. Sì, diciamo che ha schiarito, ma non è ancora il meglio. Dai, riprovo a fare un'altra regolazione, vediamo un po'. Allora, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Ascolta, ma quanto si sei vicino al microfono, perché mi sembra che hai il microfono in bocca, caspita, poi io ho quella sensazione, non lo so. È molto distante, posso diminuirla ancora, molto distante, guarda che ero minimalissimo a 30 centimetri, 40 centimetri di distanza. Non lo so, io quando lo uso io ho tutta la lunghezza del braccio, la verità, e mi dicono che esco bene, poi io giustamente non mi sono mai ascoltato, cioè mi ascolto col baracchino e basta, ma poi uno ascoltarmi io col baracchino, l'altro sentirmi voi, non lo so, vabbè, comunque lasciala stare così, cosa vuoi che dica, no? Non saprei io, Gianni, per me non è la radio più bella che ti ho sentito altre volte con quel K, capito? Vedi un po' tu, non so cosa c'è inserito lì nel C80, boh, non lo so, non lo conosco. Avanti, grazie. Brecco? Già registrato, avanti il brecco. Buonasera, Massimiliano Bulldozer, buonasera a tutti, scusate per poco fa che mi stava suonando la campanella, sono andato a pigliare. Giulio, mi servirebbe un'informazione, siamo una poidale. E come no? Non so se me la vuoi dire qua o se vuoi che mi telefono, non so come vuoi tu. Guarda, io mi lascio la portante muta e mi devi dire se c'è qualche rumore di alternata. Vediamo un po', vedi la portante muta, ti dico solo che c'è una ripetizione di radio, sento una leggera ripetizione, tu parli come se ci fosse un microfono che ripete, capito? Un microfono tipo eco, però non è che è un eco, è proprio una ripetizione vera e propria, leggera ma c'è. No, vabbè, quello lì è la scheda corta, la diciamo, la tolgo, che così ci si... Eccola qua, mi dici se c'è qualche alternata? Sì, sì, sì, c'è l'alternata, sì, si sente, però la modulazione riesce a coprirla, Quindi la modulazione la copre l'alternata? Sì, la modulazione la copre, perlomeno qui la banda a me non si sente, capito? Quando stai parlando non si sente alternata, io perlomeno non la sento, poi non lo so, però con la portante muta diciamo si sente, diciamo che è abbastanza fortina, diciamo, dai. È positivo, là. È questa anche, vero? Guarda. Si sente anche quando sta parlando di... No, io non lo sento con questo coso qua, va bene che c'è un baracchino sopra un altro baracchino, adesso soffocata la modulazione, non la sento, quando sta parlando me la copre la modulazione, forse perché siamo vicini e io sento talmente forte la radio sua che sarà sicuramente per quello, è che non la sento, va bene. Riprova, se ti occorre qualche altro controllo, Massimiliano, siamo qua, non ci sono problemi. Positivo, vi ringrazio a tutti, dai, scusate un secondino che vedo un po' cosa si può fare. Ok, ripeto mio, adesso sono stato attento lo stesso, ancora una volta, ma ripeto, la tua radio è talmente forte qui, da me che riesci a coprire anche l'alternata, però quando smetti un attimo di parlare si sente subito l'alternata, mentre invece Claudio che è più lontano, lui magari la percepisce meglio l'alternata, perché probabilmente di radio gli arrivi leggermente più deboli come ti sento io, capito? Tutto del resto noi siamo vicini e sarà anche per quello. Vabbè, avanti, grazie. Rilascia il capo di due che mi ha chiamato mia moglie. Sempre a donne tua, sempre a donne, vai. Avanti, capo di due. Ok, buonasera Massimiliano, ben sentito. Ho passato giù. Adesso dovrebbe andare bene, confermi? Sì, la radio è migliorata, però c'è il fischio, c'è un fischio. Ma che quando è in questo banco che devo mettere un coso di gomma, dire. Perché forse quando è vicino all'apparecchio so che lo fa. Confermi giù che adesso non ce n'è. E adesso non l'ho sentito fischio, ma non è che hai per caso le cuffie, no? E quando ti avvicino al microfono crea effetto Larsen. No, non me ne metto cuffie, perché c'ho un orecchio giù che ci sento poco. che sto facendo delle cure, capi del tasato, le cuffie niente, forse che mi ha provocato qualche cosa, l'altra volta avevo le cuffie, che avevo provato con un altro apparecchio a pigliare la portata e mi ha fatto un fibilo. E capitolo niente, di no, ogni volta che lo metto vicino alla radio me lo fa. E capitolo è usando sì alla grande, perché ho abbassato meno di 50 parte. Hai capito? Massimiliano, oggi ho visto una cosa tua, una la 48 tuo. Non lo so se ti ha sentito. Massimiliano, sì, ti ha fatto un interrogativo Gianni Capri 2. No, forse ha lasciato la frequenza. Non lo so, sarà impegnato in qualcosina. Va bene, dai. Avanti, grazie, riprendi. No, finita l'hai questa telefonata o questa chiamata. È inutile. Oh Gianni, è un beato fra le donne, non c'è niente da fare. Graziano è così. Ogni tanto, va. Io tante volte penso, ma forse è più impegni lui che il Presidente della Repubblica. A proposito, ho letto su televideo che Mastro Pasqua, quel ladro dell'Olympus, cioè il direttore dell'Olympus, ha dato le dimissioni dalla carica di presidente dell'Olympus. Sì, l'ho visto anche io, l'ho visto. È uscito solo in sua impressione, è uscito, quando stavo guardando il telegiornale. Sì, è così giù. È così, non lo so io, non lo giudico, ma hai capito. Se è vero, se non sono state le dimissioni, non lo so, se arrangino, si ubicchiene, ok giù, perfetto, qui siamo rimasti soli, non entra nessuno, ma con Maria sta per entrato. E gli stavo dicendo giù, bisogna che me lo tenga così, senza metterlo sul tavolino questa roba, però ho visto che alla ferramenta, mi butti a cappuccino, però quella roba io me la copro, poi c'ho la taglierina e me la ritaglio a misura, e vedo che si è isolato, ma perché il legno non dovrebbe accadere nulla, forse perché è troppo vicino alla radio. No, guarda grande questo, lo accedo giusto per fare un punto, perché ce l'avevo pure anche dalla portata, ce l'avevo, stavo usando pure così a cappino, e così adesso forse la facciamo funzionare a lui, e niente più. Per tornare al discorso dell'autocostruzione, non sai quanto ne ho di, come si chiama, di quei vecchi edifici anche del 1960, come non fare, hai capito? Nient'altro, c'ho anche un sacco di componenti giù, è solo che è la voglia che mi manca a fare cose, non ho più voglia. Vabbè, d'altronde cosa ci vuoi fare, non è che uno può stare tutta la vita facendo. No, ma io mi sono dedicato stamattina, non sapevo cosa fare. No, siccome sono salito sui Mazzada, ti ho visto questa scatola e non mi ricordavo nemmeno che cosa c'era dentro, cosa ci fosse stato dentro. Allora l'ho aperta e ho visto queste cose, ma tu vai, dici a vedere. Mi sono divertito a fare queste cose qua, adesso ci metto, mi cerco il vecchino, lo chiudo, ho visto che funziona, guardavo che ci dica, o perlomeno ci ho messo il cronometro, ho visto che funziona, o Capri 2, poi quanto vada non te lo so dire, no, indubbiamente non è una cosa di grande valore, però per dirti, no, è sempre un'applicazione così elettronica, tanto per passare un po' di tempo, capito? E visto che non ho speso niente, intanto avevo tutto, e non ho. Allora, ho trovato anche una vecchia radio a modulazione di frequenza che io avevo fatto da tantissimi anni, mi sarà almeno 30 anni fa questa storia, è un kit che avevo comprato, no? E l'avevo assemblato e c'è la parte radio, poi c'è la parte preamplificatore e la parte amplificatore. Cioè, li avevo collegati e funziona, quelli funzionano perché li avevo messi da parte. Adesso uno di questi giorni li tiro fuori, magari li faccio una cassettina o qualcosa e le metto in funzione, anche se poi non saprei nemmeno dove metterlo, ma così mi sono è considerato che ho del tempo da spendere, allora qualcosina farò. Sto cercando di inventarmi qualcosa già, rimanendo qui, io uscendo tante volte, sai, gli amici perlomeno quelli in gamba, quelli che mi piacciono, no, stanno lavorando e allora cosa faccio? Boh, sì, due passi li fai sempre, tu quello che vuoi, adesso questa settimana passata mi sono fatto una bella gita, perciò è tutto lì, capito? Cioè, si tira avanti in questo modo, del resto cosa vuoi fare? L'abita appassionato, insomma, nel vero senso della parola, già. Ah, te lo ricordate, a vedere giù. E come non me lo ricordo? Abita, aspetta dove abita, ha un figlio intanto, gli è nato un figlio un paio di mesi fa, o figlia che sia, non lo so, poi l'ho visto qualche giorno fa anche, perché? Ah, Emanuele, gli rimaneva un capo, sempre di che ne... sei maschietto, comunque va bene così, già l'ho visto, ma non me lo ricordo se è maschietto o femminuccia, questa bambina o bambino, sì, ma ogni tanto già lo vedo a Savedio, e beh, sopra di bottega abita la famiglia, no? Il padre e la madre, dunque lui ci va lì di tanto in tanto, però abita in un paese, adesso non so, non mi ricordo, forse a Uri, forse mi sembra che mi avesse detto a Uri, non lo so, vabbè, comunque staremo a vedere, e quindi di Gianni Capri 2. Anche io, niente, è così, no, io, no. Come stai dicendo, mi fa il pensionato, voi terà perché è stato volere due, le radio, esci, guarda perché è doppio, io, diciamo che al bar non ci vado, tipo che sta prendendo un caffè, un bicchiere, anzi neanche a casa, me lo metto per questo, ho adesso un bicchiere mischiato con gazzola, ed elimino anche la gazzola perché è gazzata, eliminando sale, che se anche il pane, panini, niente, lo siamo comprato le spianate giù, le metto sotto alla piastra della stufa con le mie, me le approfondisco, capito, proseguendo, prendevo la pressione altissima giù, mi sono messo proprio l'impegno, hai capito, per stare bene, e sto dormendo tutta notte. C'ho sempre, come si chiama, libri di elettronica, quando non mi raggiungo il sonno. E capito, anche io avevo fatto qualche cosa quando ero ragazzo, poi non lo so, sicuramente la roba perché è stata buttata sicuramente. Avevo fatto un trasmettitore e andava pure, allora avevo iniziato, hai capito, a 3 anni, era un uomo. Però adesso non mi ricordo, perché avevo un libro, avevo comprato la GPC. Come costruire il trasmettitore di un'ipoteca, il libro volevo cercare, ecco perché voglio stare anche su vita, almeno quel libro adesso lo recupero. Allora ero partito dallo scindapore re, quindi il separatore, capito, gli altri due, come si chiama, pilota e finale, e dava 5 quarti, hai capito, avevo parlato degli anni 70 e del 74, hai capito, tutti i pezzi avevo comprato, mi divertivo, avevo fatto il coro per fare i circuiti stampati, il chiostro, giù, l'acido, qualche, la metroviste che questo dalla Francia me ne aveva portato dei quadrati enormi qua sotto uno schermo televisore, poi anche quelli sono stati buttati via. E mi divertavo anche io, solo che tu era tutta roba poi, volante senza un contenitore, capito? Il gioco non valeva la candela e quindi poi abbiamo pulito tutto quando ci siamo cambiati di casa e niente, roba che non serviva, è stata buttata via. Mi prendi, grazie. Io già ne avevo poco di tempo a pensarmi a costruire, non vedo mai in casa, ero sempre travagliente, dunque poco di a pensarmi sapevo, e quando ero libero qualche domenica o sabato me la dedicavo in campagna, dunque avevo poco da costruire. No, noi ci riservamo con questo amico mio che poi anche li riparava, è morto e a morte. Però il sottoscritto che hai capito aveva, io perché poi avevo lavorato anche perché mi dedicavo, io dai 14 anni giù, non ci rimanevo fermo lì, ho lavorato lì alla Magistrati, dove facevo le mattoni, col magista, quando ero in vacanza, hai capito? Poi me oddio cosa sono dei 14 anni che sto lavorando giù, hai capito? E quindi poi mi dedicavo a queste cose, però specialmente quando mi avevo imparato, lui voleva anche ci metto il modulatore diretto, il modulatore ho detto che mi dovevo collegare sullo stadio Pinocchio, ho detto. E perché se Giulio dello stadio Pinocchio la voce non è più reale. Quindi, l'ho spiegato, l'ho spiegato, le onde, no, però andavano messe poi passare attraverso il separatore per pulire dalle armoniche e dopo c'erano tutti i vari Italia, hai capito? Sono preparatissimo due, solo che il tempo, hai capito, non mi permette di andare a avere patente e niente, perché ci sono quei siti, manco uno nel sbaglio. Potrò fare qualche errore, poi mi ricordo la scheda, la rifaccio e vede memorizzata. Solo due troppo da fare, mi lega le mani, però sarebbe stato bello avere così per un ufficio anche la patente, ripresi. Ok, no, io questo non ne ho proprio voglia di studiare, ho già, no. Ce l'ho il mio il libro, anche quello, il libro quiz, eccetera, eccetera, un sacco di cose. Avanti qua. Scusate se vi interrompo, sto sistemando con 140 o giù, non è che mi dici per cortesia se va bene, se sta andando bene, come ti sembra? Mi sembra che la tua radio è bassa, tutto lì, no, nessun problema, io non trovo nessun difetto. Ok, va bene, allora lo posso chiudere, detto che non ho portato a fare l'apparatura, ho sistemato e consegnato. Grazie Giulio, semmai ci sentiamo dopo, scusatemi che sono, lo chiudo così non me ne vengono pezzi in mano, non si sa mai, a dopo Giulio, grazie. Niente, figurati qua, non è un problema, quando ti occorre qualcosa basta chiamare, non è un problema. Stavo dicendo, io ripeto, ce l'ho il libro anche per studiare, non ne ho voglia, sinceramente devo dirti, guarda, non ne ho più voglia di leggere, la verità, non ho più voglia di leggere, no, nella maniera più assoluta, guarda, ho anche il libro dove ci sono tantissimi quiz, ci sono, infatti l'avevo prestato a un amico tempo fa e poi me l'ha restituito tranquillamente, lui le stava studiando e penso che stia ancora studiando, prima o poi si ripresenterà, non lo so, e l'avevo anche prestato, capito, non, però io a me sinceramente, sì, mi sarebbe anche piaciuto, non dico di no, però non ne ho voglia, non ne ho voglia e dunque ci rinuncio e basta, senza stare lì a pensarci, perché se ci penso poi magari mi fa anche stare male, no, non ci penso e così almeno finisce lì, mi rimango qua, mi rimango in questa frequenza e quattro amici che si trovano sempre, parliamo qua e ciccia, capito già, perciò no, va bene così, no, ripeto ancora una volta, non ne ho voglia di studiare, non ne ho voglia, proprio niente, ho studiato tanto quando ero ragazzo perché lavoravo e studiavo e poi alla fine ho studiato quasi una cosa inutilmente perché non sono riuscito, non ho voluto, o meglio non ho potuto fare l'esame di Stato, se no io sarei stato geometra, sarei stato, però siccome io sono primogenito di una famiglia numerosa e a casa servivano soldi, servivano. Mio padre aveva qualche handicap, aveva e non ci vedeva molto bene, pertanto ho dovuto lavorare subito e prendere addirittura gli assegni familiari per i miei fratelli, per dirti no, però riprova l'ho avuto ugualmente, però non ho potuto mai fare l'esame del fatto e dunque non ho potuto mai fare il professionista, mi interessava guadagnare da subito e allora ho iniziato a lavorare, avevo iniziato contatto già da prima, perché facevo lavoro, studio a casa e poi tutto questo giro sempre, casa, lavoro, studio, così via, capito? Non ho, per dirti, ma non è che me ne sono pentito, sinceramente non me ne sono pentito, no, mi va bene così. Avanti, grazie. Praticamente anch'io non ho continuato a scuola per quel motivo, anche in casa era un bel stipendio di babbo, ma baciava e allora bisognava andare a lavorare, così sono andato a lavorare e pazienza, lo studio, ma tornando indietro già me le avrei fatte le scuole, ma però bisogna vedere sempre i problemi familiari, magari era messaggio più poco in casa, era minuto, lo ha dico preso, mamma babbo, dici, e ora mi ha dato cura. Allora trapassare per poter aiutare la famiglia, e cosa aveva? Vabbè, ma già non mi lamento, là. Già mi sono stato arrangiato, già me l'ho sempre cavata. Riprendi il capri giù. Ok, grazie, io diciamo che posso dire che era un atto bella bambagia, perché dopo aveva potuto saltare e diciamo mia nonna, la madre di mia madre, aveva un negozio di alimentari, nonno lavorava, capito, per lo Stato, nella poveriera, capito, però da civile qualche buon come si chiama, che così era molto affascinato da quelle persone e così. Niente, diciamo, in casa non ci mancava mai nulla, e capito, perché stavamo tutti assieme, non abitava di fronte a casa, hai capito? Poi ha fatto casa nuova e poi stava sopraelevato sopra quella casa che era, no, enorme come estensione, e niente, quindi diciamo che l'unione fa la cosa, che siamo stati bene, purtroppo adesso no, non ci sono più, hai capito, è rimasto babbo solo, perché mio figlio non è con lui, e così diciamo che non ho conosciuto, diciamo, la povertà, perché non eravamo ricchi, ma eravamo, diciamo, persone benestanti che non ci mancava niente in casa, però adesso con questa crisi, capito, non mi posso considerare più così, bisogna abbassare la testa e lavorare, però io ho sempre lavorato, a parte quello mi piaceva proprio il lavoro, avere 10.000 di tassa, mi è sempre piaciuto, e poi i miei hobby erano mille, moto e le radio giù, altri hobby non ne avevo, non ho mai fumato, hai capito, cioè uscivo, ma non proprio quelle uscite da, diciamo, come fanno scienze abituali, e capito, il giusto. Ok, già, certo, d'altronde, io ti sto parlando di quando avevo preso il diploma io, se vuoi vedere 50 anni fa, perciò non è oggi, anzi, di più di 50 anni addirittura. E dunque, allora i tempi erano quelli che erano, gli stipendi erano quelli che erano, anche se c'era il lavoro, perché il lavoro lo trovavi, uscivi tu da una bottega, bussavi nell'altro accanto e avevi il lavoro, questo sì, ma per dirti, però le spese c'erano, perché noi a casa eravamo una famiglia numerosa, tu pensa, noi siamo stati, mia madre ha avuto 7 figli, io sono il più grande, 2, ho dovuto sacrificare praticamente io per poter aiutare in casa. Poi naturalmente man mano che sono cresciuti anche i miei fratelli, anche loro hanno collaborato e devo dire che qui ce la siamo dove passata alla grande, no? Non ci sono problemi, capito? Del resto tu pensa che mio padre quando è morto aveva 150 milioni conservati ed era un pensionato, tanto per darti un'idea, no? Però l'effetto anche dell'aiuto appunto che c'è stato a casa, eccetera, eccetera. Capito? Io sto parlando del 97, esattamente quanti anni sono? 17 anni, una cosa del genere, boh. Vabbè, per dire, no. Mio padre aveva 150 milioni in banca quando è morto, per dirti. Poi la cosa è andata così, naturalmente i soldi sono rimasti, ce li ha mamma, perché mamma ce li voleva dividere, ha fatto no, assolutamente, questi sono soldi tuoi, li abbiamo detto tutti quanti, sono soldi tuoi, tu sei grande, avrai bisogno sicuramente dei soldi, ma la pensione, sì, lo so che è la pensione, va bene, vuol dire, tanto non ti servono, se non ti servono ritoccare, non ci sono problemi, ti tieni in banca come, anzi, a dire la verità ce la deposta, non in banca. E allora è così, e mamma va avanti con la sua pensione tranquillamente, non ho problemi, e so che i soldi ci sono sempre, ma a me non mi interessa che ci sia o non ci sia, anzi siamo stati sempre noi a dire a mamma, fate delle gite, se vuoi ti portiamo, no, non ce ne sono problemi, capito? E dunque va bene così, poi noi non abbiamo bisogno di soldi, capito? Vabbè, prendete un attimo che c'è il telefono che vi sta chiamando, avanti. Insomma, apri tu, riprendi tu, come mi copi quelle coordinate? Ok, Santiago 8, grazie, Santiago 8, la radio è perfetta, non è 5 ma è perfetta, non so come ti sono arrivato io, dimmi che ti arrivi, se Santiago come ti arrivo in quelle coordinate, vai. Ma il radio qua mi sta arrivando quasi 5, è buona, è pulita, mi arrivi bene con questo. Con quell'altro si sente un po' più male, poc'anzi. Come Santiago è quasi 9, va bene che la mia antenna è messa male, dunque non è non troppo solare, è proprio perfetto, perfetto il controllo, capisci? Mezzo cappuccata. Cos'è? Che era regolato molte volte, noi questo apparecchio vuole accendere e farlo scaldare, non a modulare subito, e molte volte quando accende non va in fase, quindi ci va direttamente al coso che è giunto la sera per farlo sentire, io l'ho alzato, ma niente, va bene così, l'hai capito, lo uso raramente, ce l'ho così solo, per appello, non mi interessa più di tanto, è così. Grazie, cosa succede? Quando scalda poi satura sia come si chiama, perché diciamo c'è quello che è troppo alto, allora satura e niente, ecco, l'ho stabilizzato e quando lo riaccenderò lo farò scaldare fino ad arrivare in temperatura, poi che non ci sia bisogno di toccare niente. E così, no, non mi arrivi bene, mi arrivi. Ok, volevo accendere il console, ma adesso a stare attaccando e staccando, poi vediamo più tardi, perché qui spazio ne ho poco, hai capito? Bisogna per accendere uno e fare l'altro, tutte quante queste belle cose, però vogliono farti girare, almeno questi che sono qui li faccio girare, poi c'è il contratto, c'ho imparati anche, ce l'ho in garage, hai capito? Ma una vetrina con più spazio ci metto, ma anche di pelle, capito? Perché a tenere il fisso dentro un mobile con quello, però a tenere il fisso anche così non mi piace, li voglio vedere tipo quando sono nel negozio, hai capito? Fare delle vetrinette tipo quelle che ha Fusaro, hai capito? Solo che se ne vorrebbe, no, due o tre di quelle che passano, ma adesso per il momento l'importante è averli, poi non so manco come sta producendo sempre, che fine faranno. Ok, Giulio è al telefono, non lo so se ha finito, io parlo la portante. Brecco! Papa, ha fatto il brecco! Buonasera a tutti, Marco Condor, Barra Mobile, buonasera Graziano, Capri 2 e Giulio che ha telefono. Papa, ciao Marco Condor, ben risentito, il macchina, sì. Sono CNA Capri 2, vabbè, si rilascia Capri 2, in Girella. A fare la spesa, buonasera Capri 2. Marco, buonasera, salutoni, ben sentito, io sono qui, diciamo. È il frigorifero perché c'è freddo, hai capito, quindi un po', ci sono da parecchio, dopo che ho finito il servizio me ne sono salito qui, me ne sono e sto, hai capito, un po' chiacchierando con Giulio, con Graziano e con qualche altro amico che si è affacciato. E rimetto il tutto a Giulio che ha finito la telefonata e altrimenti se non risponde di prendere Graziano, va. Cappa, cos'è la base quello che stai usando adesso, Gianni? Ia. Ah, e beh, quello lì lo devi accendere e lasciarlo scaldare un po', se lo accendi lo devi usarlo subito, non esce bene. Cappa, Marco, cosa vuoi devi comprare? Aragoste, gambiruni, granchetti. No, non è più tempo di aragoste e gamberoni. Adesso diamo un occhio al portafogli. Già è sempre tempo se ci sono i soldi, però già. Bisogna, io intanto, hai capito, lascio andare la mano, con gli apparati, però adesso è tempo anche di pensarci un po'. Mi sembra che le correzioni sono finite, grazie a, hai capito, un po' dovrà sempre collezionato cose. E niente, poi senza mangiare non mi sa nessuno, riprendi Marco. Cappa. No, vabbè, ogni tanto ci può stare, ogni tanto. Tanto da Ocean sono anche 2 kg, quant'è? 20 euro vanno anche bene, capito? Se li prendi di pescheria invece no, sono cari. Sì, ma non ti usano matto per i gamberi, hai capito? Preferisco molte volte, sono molto, diciamo, economico, e mangio la gente invece che sta guardando l'auto per pescato, dove qui, dove là, io, hai capito, sento sempre il risparmio, hai capito? Perché ce ne sono molte cose che guardano il taglio dei gamberi qui là, io compro quando quello che è fresca, hai capito, ma non so guardare tutte quante queste cose, però anche il televisore ha detto che stiamo mangiando anche dei cibi avariati, e avete sentito grazie a oggi il televisore? Specialmente con le cose surgelate, ma no, mai io di quelle cose surgelate ne prendo poco e niente. Dal giorno che l'ho fatto vedere al televisore, quintali e quintali, rimorchi di surgelate, di cose, di pesce, carne, addirittura era putrefatta e non so cos'è che li iniettavano per fare vedere che era bella fresca. C'è la papella, la salute, già ti mangi quella porcheria. Riprendi, Marco. Ok, vabbè, è entrata in negozio, io vado un attimo a Piazza di Segni, così è più aperto per i segnali. Ok, andare, hai capito già che io ho rubato il gelato, magari un tempo già ne compravo di più, adesso qualche cosa ogni tanto già la prendo, però mi guardo la scadenza della marca, perché se no non le compro. Sì, lo sai cos'è, grazie, tutto quanto, anche la carne io riesco a comprare un porcettone per farlo, diciamo, che prendevo nella pentola, sì, l'ha fatto, però non era niente saporito, grazie, niente saporito, non sono rimasto contento, e hai capito, anche la carne non mi dà più quello di mangiare, perché non è più come quella di una volta. volte, e poi succederà che ormai quella roba lì sta andando proprio avanti. Ho visto che, diciamo, il macellaio stesso, nonostante che c'è la macelleria, fa il banco con questa carne già confezionata nelle pacchette, però hai capito, non la vende oggi, non la vende domani, rimane nel banco lì, e poi andiamo a prenderla magari, e la stessa carne ci ha cambiato, come si chiama, l'etichetta delle patente, non vai dare confezionata, hai capito, e anche quello si teme, graziale. Ehi, a quello sì, no, ma io già fare macelleria, c'ho la macelleria qua vicino, ce ne sono due altri, e tratta molto bene. Ho provato un periodo ad andare lì allo spazio della carne a Prataneta, una volta mi ha dato la bruschetta dura che la balla, ci ho voluto una bomba e non ha neanche cucinato, neanche il cane ne ha mangiato. Un'altra volta mi ha dato le fettine di cavallo con tutti i nervi, poi ogni fettina quanto un piatto l'ho messa sulla griglia a fare ed è diventato un cerchietto, non ci sono più andato. No, ma poi quando mi serve il maiale, beh, io me lo compro da un amico mio che è a Guspini e me lo sale addirittura me lo sale lui o me lo manda, che li alleva lui, li dà a mangiare lui, e sono saporiti, proprio gustosi, buoni buoni. C'ha conigli, c'ha pecore, c'ha mucche, c'ha di tutto, c'ha. E quando mi occorre lo chiamo e me lo procura, in una settimana è già procurato, ce li ha lui, oppure mi dice aspetta perché sono piccoli, capito? E sono buonissimi, sempre da lui li compro. E io lo stesso, qualche volta, diciamo, andavo da mia moglie, portavo, però è sempre a rischio, hai capito, perché la carne è buona e roba locale, però a portare cosa in macchina è rischioso, e grazie a miei cognati qualche volta sono avventurati, mi hanno portato una volta che un albinello dalla Roma, e l'ho scherzato una sera, verso le 2, al telefono, alle 6 c'era già l'albinello qui, adesso andiamo a prendere una scala, e lì c'è la carne buona, però diciamo, bisogna, è il trasporto, è capito, temo che ripetino carne, perché deve avere una certificazione, dopo le prese, dopo non le prese, è capito, e così, se no già nella parte la pena andare a fare un impugnamento, io ho che frizze qui, hai capito, grazie a me, la sei confezionata in pacchetti, in cose, però insomma, dipende anche la carne, dal pasco, da cosa mangia, il bestiame, sono le cose, per le cose. Marco Fondo, riprendi. Ciao, sono Piazzale Segni, al centro. La P2 arriva meglio di Graziano in questa posizione qua. Volevo chiedere a P2 il segnale com'è adesso, portante multami. 95 Marco, siamo Piazzale Segni, siamo un tiro di schioppo nel paese, in linea d'aria siamo vicinissimi. Io sto andando col campo, sto andando, sto prendendo quattro, va alla grande, va per andare, oggi non l'ha vista già, va per andare, tanto le potrà fare la linea, hai capito, la linea Somerca, perché ci ho mandato gente con la scuola ferruta, non me ne frega nulla, l'ho mandato con una scuola a vedere, e adesso veramente FR50, e già sono loro, però sto fatto le montagne, lui pensa che sia contro via. Hai capito, quindi c'è il processo di quella lì, è bella, la devo avere, hai capito, mi sto abbassando sempre di questa linea, insomma, lui mi ha dato dei microfoni, ma perché ha rilevato un sacco di roba, però bisogna stare insieme. Cioè, Rofa, mi l'hai fatto proprio come si chiama indietro, dopo c'era il mio voce, so come non sta finato c'è questa roba. Bisogna che un giorno mi armi di massima leader che senza trovare cosa c'è. Perché anche di quello credo che ne so qualche altro. Hai capito? Ma aveva portato Parigi e poi c'era anche uno che era attaccato alle strade, che è di questi, che era Claudio che va per andare, che compa per andare. E così, grazie a riprendi. Sono rientrato. Io adesso ho fatto il microfono conservato, boh, mi l'altro giorno ne ho dato uno a Gian Maria, mai adoperato, però era normale, aspetta cos'era, ora non mi rammento, piccolino però l'ha piantato il filo, era anche senza il filo, non volevo senza adoperare. La piazzata che esce bene, non mi ricordo che marca è. Eccomi qua, un attimo, Capri 2, guarda adesso. Sono diminuito, Ehi, quanto? Portante multa, dico, eh. È all'incirca quasi due tanti anni, Vabbè, dai, siamo lì, anche dalla macchina è la stessa minestra, ecco, così attaccato, io penso che siano un 60, una sessantina di watt, più o meno, dai, rispetto ai 4 di quando è liscio, va bene, dai, riprendi Graziano. Ehi, faccio riprendere a Giulio che ha finito la telefonata, riprendi giù. Ok, ciao Marco, buona serata, anche tu ci sei. No, avevo interrotto appunto per una telefonata, niente di particolare, un amico che mi ha telefonato. Va bene, stavo dicendo, che cosa stai provando Marco? Perché ho visto un segnale prima basso e poi tutto una volta alto. Cappa, no, il solito apparato, il Connex 4000 Echo. Più quello della ZG, il P150, che non dà molti watt, ma li dà. Una sessantina di watt, credo. Sono in macchina, Un attimino, Giulio, ma com'è color d'oro quel lineare lì? Gaffa è dorato. Io ne ho uno di quelli lì, ho fatto il cugino, non glielo chiedo a vedere. E ce l'avevo nella Horizon, assieme al Tokaichi 2024, però prima funzionavo con l'Inter 4.10, che poi avevo fatto cambio con Tokaichi, niente. E poi l'ho fatto più io perché era parecchio il Tokaichi, quello l'ha volato uno di Croaghi, che era il microfono padella come una candidata, ma la grande cosa è bellissimo, ma con quello che sei riuscito, però non va sentata, quello lì ne dava quasi 100 di quattro. Lo so, in origine sì, però ha subito vari ritoccamenti e il massimo che siamo riusciti a dargli rimettendo i componenti giusti è questo. Conta che non sono 5 watt di ingresso, sono 4, perché questo ne ha 4. Se fossero 5 magari arriva anche a 80, dai. Ok, no, andava alla grande, andava, no, a 100 non si avvisava, però ti dico che più di 80 e tutti gli dava, però quando c'era ancora, mi sa che l'hai venuto a trovare in garage, lui per camionista, hai capito, andava alla grande, andava, e già avevo un baracchino, che poi c'era ancora, il baracchino c'è, ed è accostato di mano anche, c'era il lineare, c'era, però, non so da quella, c'è anche il baracchino che si chiama piccolino, c'è un verde, ho capito, va bene, per fare la prova. Sì, da nuovo sicuramente li dà, senza toccare nulla. Qua è stato, magari, bisognava adattarlo con l'ingresso a 10 watt, no? Poi quello non ha voluto più, e allora me lo sono preso io, però era già un po' incasinato. Va bene, e la modulazione è abbastanza chiara, chiedo a tutte e tre. Sì, dai, è buona, non è perfettissima. sì, ma non è come quando si è a casa, però già va bene, o Marco, non ci sono problemi. Ma sai cos'è? Il problema è che tu dici 60 watt, sì, magari ne dà 60 watt, non so se poi tu l'hai misurato con qualche wattimetro o qualcosa del genere, qualche strumento, eccetera, però poi l'antenna magari te ne arriva la metà, perché succede così, perché c'è il cavo di trasmissione, c'è l'antenna che appunto nominali magari possono essere anche 100 watt, possono essere come il B150, lo danno per 100 watt, ma poi in realtà non era nemmeno 70-80 in antenna, anzi sicuramente molto meno. Dipende molto dall'antenna e dal cavo di trasmissione, capito? Perché c'è una dispersione di valori rispetto ai watt, eccetera, capito Marco? Perciò non ci cominciamo che quando ci dà 60 watt con lo wattimetro che ce ne abbiamo in antenna, assolutamente, sono molto ma molto di meno, capito Marco? Lo credo, tu pensa che poi io ho 50 metri di cavo, quindi... Tanto peggio Marco, e più cavo c'è più distorsione abbiamo, ma non solamente il cavo ma anche l'antenna. Tu devi tenere sempre presente che c'è sempre almeno un 5% in meno in antenna, solo l'antenna, almeno un 5% in meno della potenza, oltre al fatto del cavo, eccetera. Il cavo poi non ne parliamo, se è un cavo che ha delle perdite abbastanza importanti. Allora siamo lì. Sì, magari, ripeto, il wattimetro ti può segnare 60, 70, 80 watt, non lo so, a secondo dell'apparecchio che del lineare che usi, però poi l'antenna ti posso garantire che ne arriva la metà. Questo è una questione matematica e tecnica soprattutto. Vabbè, dai, non dilunghiamo queste cose perché non sono troppo saputello, non voglio passare perlomeno per saputello. Avanti Graziano. Ehi, Gianni, te lo ricordi quel lineare piccolino che ti avevo dato io, che era dorato? Capri giù. Tanto più se sei in macchina, per dire, con l'antenna magnetica è ancora peggio, la perdita è ancora maggiore. Ero spostato un attimo, mi ero scusato. A quanto sembra si è spostato anche Marco. Figurati. Va bene, dai. Al maestro 70 watt hai detto, Gianni, 70 watt hai detto, così era. Ma 70 watt... un baracchino con un lignaretto. Gianni? A me sei chiesto tu? Sì, ho chiesto se poc'anzi tu hai detto, io sto usando 70 watt, mi hai detto poco quando abbiamo dato i controlli riguardo alla radio eccetera. 70 watt, a cosa ti riferivi? 70 watt col K stavi ridando, lo stavi mandando in aria, oppure 70 watt col baracchino e un lignare? Col K l'ho regolato e l'ho regolato, adesso l'ho anche abbassato, c'erano una quarantina scarti, l'avevo abbassato perché andava in saturazione. Ok, col K sto andando. E con quale lineare, Graziano? Non mi ricordo io che mi hai dato nessun lineare tu, no? Ehi, alla peloce vicino alla chiesetta, te lo ricordi, un po' di anni fa. Io l'avevo comprato un orologio da, come si chiama, l'avevo comprato da Adriano Cao, non sono io quello. No, eppure mi sembra l'avevo fatta a te, sarà un 6-7 anni fa. No, io il lineare quello lì che era vecchio. Hai capito, quando ero scappo, lo sono sposato già quasi 28 anni fa, quest'anno, e niente, e quel lineare lì, l'avevo io, quando ero scappolo, stiamo parlando dell'82, nell'82 ce l'avevo. Forse allora non l'ho data a te, perché c'aveva il camper, te lo ricordi Giulio tu? so, questo particolare non lo so, la verità non. Ma devo dire che io non sono stato un grande appassionato di legnare mai, e guarda, io qualcuno ce l'ho avuto, negli anni passati avevo il 130, BV130 avevo, e dava 100 watt, quello era valvolare, quello in bottega l'hanno buttato da una parte, anzi gli ho tolto lo strumento, l'ho regalato, me l'ha chiesto un amico e me l'ha regalato, cioè, e l'ho regalato lo strumento, così che ci dovrebbe essere ancora le valvole, ci dovrebbe essere in quella pericola, ci ha buttato da una parte in bottega, da qualche angolo, che sta dietro a un po' di legname, non so. E poi ho avuto, sì, qualcuno ce l'ha avuto, però devo dire che non mi è mai entusiasmato, non l'ho mai usato proprio frequentemente, qualche volta così proprio per provare, basta, ma niente di più, la verità, non sono stato mai amante del legnare. L'ultimo che avevo era il 747, era il legnaretto, 100 watt, lo danno per 100 watt, ma quello mettevo il garage e usciva un po' distorto, usciva la modulazione perché eravamo troppo in grosso, perché questo baracchino ce li ha più di 10, penso, 10, 11, 12 watt da questo baracchino che ho io, perlomeno stando al coso, al wattimetro, mi segna così. E appunto, dicevo, e poi quello me l'ha bruciato il fulmine tempo fa, dunque da quel giorno poi non ne ho più avuto, capito, grazie, non mi è interessato mai più di tanto, anche se devo dire, delle volte serve un aiutino, quando ad esempio si fanno collegamenti col continente eccetera, può servire un aiutino, ma non mi entusiasma più di tanto, capito, vabbè, dai, riprendi il K2. No, io andavo sempre, diciamo, dalla palla mobile. Prima da Moliscio, poi quello l'ho comprato dopo, da Colo, da Adriano, ti ricordo, sto facendo memoria che l'ho preso da Adriano Cao, da qualche alla GBC non è possibile, o da Pusa, era tutto un color d'oro, era, e dorato, non mi sembra se variare, non me lo ricordo bene, e da parte che aveva il suo pallino nero, poi pulsanti arancioni, AM e NCCB. E poi la sensibilità, okay, non me le ricordo proprio dove l'avevo comprato, proprio sto facendo memoria, ma sicuramente l'ho comprato da Adriano Cao, sicuramente l'avevo comprato. Cosa volevo dire altro? Poi di valvolari usavo poi a casa quello che aveva costruito Betta Verde, capito che ce l'ho ancora in garage, e lì all'epoca ne avevamo levato da formatore per metterlo in un altro lineare, hai capito, che aveva costruito lui stesso, che gli era passata che ha costruito il formatore. E poi da formatore giuro si è visto più, capito, perché me ne sono fregato, non ne ho più chiesto, e quindi era rimasto senza, però ce l'ho ancora, c'ha due valvole dentro. E poi da lì ogni tanto me ne vedevamo qualche cosa resistente, e niente, c'è ancora i variabili, c'ha lo strumentino. Quindi adesso è lì solo per museo, ma costruito lui talmente. Però sempre anche in cerca di chiedervi di rimetterlo a posto per averlo come museo, ma poi ho detto cosa me ne faccio, cioè è rimasto solo così, giusto per dire che c'è. Riprendi Marco. Marco lo riprende, riprendo di nuovo io, si vede che è impegnato Marco. Sì, ma ecco, ma il trasformatore è sempre quello, lo puoi sempre comprare, costa intorno ai 30 euro, 35 euro, una cosa del genere, un trasformatore con ingresso 220, che poi con doppio voltaggio a 12, 2 voltaggi a 12, che poi magari vogliono messi insieme. Ecco la T a 280, una cosa del genere, 260, 280, va bene. Sicuramente lo potrai ripristinare se proprio ti interessa, capito? Perché tanto le valvole hanno bisogno di quella tensione, hanno bisogno, capito? E dunque va bene, capito? Attivo di alta tensione, no? Perché di solito così, c'è un trasformatore, c'è con un voltaggio da 260 a 280, se fosse 300 volti è uguale, non cambia niente, intanto è per le valvole, e poi ci sono i 6 e 6, 12, capito, che messi poi a posto diventano 12 volte, capito, non è un problema. Ma cosa intorno alle 30 io o una cosa del genere, 30-35 io ho un trasformatore del genere di 10 anni. Vabbè, dai, vediamo un po' se è rientrato Marco. Marco? Marco non è rientrato, avanti, ringraziato. Vabbè, io vi saluto, dai, che qua devo chiudere. Ce la risentiamo a domani se Dio vuole. Ciao Giulio, ciao Capri 2, ciao Marco e ciao chi l'ascolto. Rilancia a te Giulio, riprendi. Ok, ciao, grazie, ci sentiamo alle prossime, dai. Saluti in casa e grazie per la chiacchierata. Ci sentiamo eventualmente domani, domani è domenica, speriamo che faccia bello, almeno se non altro la mattina, per poterci fare una passeggiatina, o soprattutto perché la mia intenzione sarebbe quella di andare magari a vedere qualche partita di calcio nei vari campi minori, diciamo, eccetera eccetera, capito? Come molto spesso faccio, la domenica mattina vado a cercare di partite così di dilettanti eccetera, poi magari la sera o si esce con la famiglia, o perlomeno se non la voglia di uscire mia moglie, forse non uscirò nemmeno io, allora mi rimango a baracchino, qualcuno entrerà e poi facciamo quattro chiacchiere. Va bene, ciao, grazie, alle prossime, ti mando avanti Gianni per salutarti, avanti Gianni. Ok, ciao Graziano, buon venerdì, saluti in famiglia, dai, ci sentiamo domani. Ok, giù, non è a 12 il trasformatore, era a 24 volt, a 24 alimentava, perché montava due valvole da 12. Cioè aveva l'alimentazione del trasformatore, aveva fatto il circuito a 24 volt, aveva fatto. E io come non siamo, siccome quando c'era già preciso, no? E ma questo tanto lo ritratto, perché e questo ci aveva un altro lineare preciso, ci aveva, non so, è proprio come si chiama, la stessa cosa che era capitata a me nel trasformatore nelle svettaggi. E io gliel'avevo levato, capito, perché lui ha detto che si poteva fare di avvolgere l'altro, perché avete a vedere se era quello. Comunque poi non è che non me ne sono interessato io di richiederlo, però poi avete passato tanto tempo, hai capito, questo è successo nell'80, perché il lineare prima ce l'aveva sempre la Bonanima di G91, l'aveva costruito per Mandriano di Proaghe, per Mandriano l'aveva costruito oggi il lineare di poi, ma non so, era capitato in mani a G91, quando si è stufato l'aveva lasciato a me, hai capito, e c'è un, come si chiama, c'è anche il René dentro, un René strano, le valvole, i variabili, hai capito, e io ne avevo anche le fatto quegli avvolgimenti, quei coli, quelle bobine che aveva fatte lui, come si chiama, asfaltato, un rame, hai capito, però non è un problema, ma cosa avevo fatto che non... Ormai se voglio, come si chiama, vado e lo compro, però giusto era per averlo come museo, però non ti credere che andava più di tanto e mi sembra, ma a tempo quasi non ci arrivava, mi sembra. Registrato? Sì, cioè col bello uguale comunque Gianni, se anche se a 24 il trasformatore con doppio 12 volt, capito, con lo secondario, due secondari da 12 volt che poi vanno messi in serie eccetera eccetera. C'è stato un break. Comunque la tensione della DHI è sempre quella, è sempre intorno ai 280-300 volt, no? Perché intanto le valvole lavorano con quella frequenza, perché la tensione bassa è per il filamento, il resto è per il lavoro che deve svolgere la valvola, capito? Avanti break. Positivo, ciao Giulio, ciao Gianni Capridura, di nuovo io là, non si vediamo da questa parte. Giulio, questa è un'altra radio però, Ok, ultima anche questa, Massimiliano, ci sono problemi, sempre alla grande, va benissimo, non bene, benissimo, io ci sento molto bene. Vediamo un po' quale impressione ha di questa radio Capri 2, avanti Capri 2, come l'hai ascoltato Massimiliano? Ok Massimo, buonasera. Santiago Vicente, la radio è precisa e ti posso dare anche 5 Massimiliani. Va benissimo. Poco fa ti stavo chiamando, ma se ho lasciato la postazione. Oggi c'era uno che aveva un'apparecchiatura sua in macchina nel sedile di dietro. Ma c'aveva un'apparecchiatura mia? Una alla 48 ci ha preso, e questo baracchino gli ho detto, l'amico suo ha detto me l'ha preso giusto. Positivo, positivo. No, già va bene, no. Vabbè, questa qui è totalmente un altro tipo di radio, quando... Questa va bene, dai. Va bene, diciamo che ho avuto il figlio di questa, dai. Questo è l'FT767 con l'MD1. Per me va bene, non lo so anche se c'è qualche altro, per qualche cosa non sto usando il K col microfono da suo dell'MC60, è giusto per farlo funzionare subito, se funziona bene, perché era fermo, anzi non ce l'avevo manco sul banco più, hai capito? L'avevo allontanato dal banco perché ero molto in baracchini, hai capito? Adesso sto sotto mano una linea che è sicuro che questo non sta manco così. Il mio rivenditore di roba musicale mi ha fatto un capo di microfoni, hai capito? E c'è questa roba che sicuramente uno che ti ho mandato di zona con una scusa, proprio per scendere sotto, perché c'è una specie di scantinato, ma è sicuramente, come ho detto io, è una linea Somerset. Ma lui aveva acquisito questa roba all'epoca con degli strumenti musicali, perché vende strumenti musicali, e c'era questa roba in più che era dentro. Tutti quelli vendevano anche radio, tipo Lucchino Cazzo, che vendeva anche i baracchini, i 3 di giugno. Ok, già, sì. Ok, Massimiliano. 767. Sì. Quello non lo conosco. Lo conosco. Diciamo che è delle dimensioni più o meno del 440. Simile, si rassomiglia moltissimo. Sì. È un bel apparecchio, molto, molto, molto bello. Va benissimo, comunque Massimiliano, la radio è bella, pulita, tranquilla, nessun problema. Non c'è niente da dire, va benissimo Massimiliano, riprendi. Positivo, non lo so, guarda, l'ho attaccata io da poco, quindi ancora non è che la conosca bene, ma chi viene volendo si potrebbe ancora aumentare un pelino, infatti la stavo provando con questo MD1 per vedere, per la mia modulazione, cioè per la mia timbrica, se andava bene tutto qua. Sì, va bene, è chiaro, pulito, di radio, nessun problema Massimiliano, va benissimo. Sì, lo conosco quell'apparecchio lì, è bello veramente, in effetti hai detto bene, è un apparecchio di vecchia data, d'accordo, quello che vuoi, però è praticamente simile a 440, più o meno quello che ho io, si discosta di poco, però diciamo che più o meno le stesse funzioni, dai, le stesse caratteristiche e tutto, va benissimo, ma non avevi anche 14 tu? Anche quello, ma quello è diciamo che è in partenza, dai, diciamo così. C'è quello lì, no, vabbè, questo qui è, fa qualcosina in più, diciamo, del 44, va, che è un quadribanda qui. Sì, lo so, lo conosco, molto bene, sì, va benissimo, tienitelo quello che va molto bene, o Massimiliano, io ti sento benissimo, no, nessun problema, silenzioso, come rumori, niente, la radio è perfetta, dunque va benissimo, no, non c'è da dire niente, capito, è inutile stare lì a commentarlo, perché intanto non se ne possono trovare di difetti. O nemmeno uno, assolutamente. Va benissimo, veramente. Vediamo se è rientrato Marco. Marco, ci sei? Oh, Marco, se n'è andato in giro, se n'è andato Gianni. Marco, se n'è andato in giro. Sono qua. Ah, ci sei? E allora perché non mi rispondi? Modellaccio. Ehi, c'era un problema sulla modulazione. Risolto. A colpi. A colpi, cazzo, dal martello è preso, è bello, c'è un male, vediamo un po', come lo senti a Massimo? Massimiliano, Marco, l'hai sentito? Suppongo di sì, perché non so se è dall'ascolto, ma suppongo che tu lo vedi, dunque l'hai sentito sicuramente. Allora, sono in zona negativa, segnali bassi e QRM a 3. Sì, vabbè, lascia perdere il discorso del segnale basso, io intendevo la radio, Marco, niente di più. Ti mando avanti Massimiliano, e c'è sempre Gianni Capedue anche, avanti Massimiliano, Marco Condor. Positivo, allora, ciao Marco, buonasera, ben ascoltato, non lo posso dire perché io ti sento proprio basso di radio, va. Comunque riesco a tirarti fuori, avanti, buonasera. E forse non mi ascolta. E già ti ascolta, lui è che ha problema, Marco! Ehi, c'è un QRM dalle insegne, molto forte, e sono in un buco, non posso sentire nessuno, riesco solo a capire te. No, non ve lo dire, perché Massimiliano lo senti per forza, Massimiliano lo senti di sicuro, dunque non è possibile, te lo rimando avanti, fai un po' più attenzione, capisco che sei in un fosso e i segnali sono bassi, d'accordo, però Massimiliano lo senti di sicuro, vai Massimiliano. Positivo, dai, ti saluto, ciao Marco, buonasera, vedi un po' se riesci a tirarmi fuori, non lo so. Ho capito, ciao Marco, buonasera, non ho capito altro. Dov'è Giulio? Lui dov'è? Io lo sento proprio senza segnale qua, solo di radio, ma proprio la radio piccola. Sì, anch'io lo sento piccolo, ma deve essere, o è a Porto Torres, lui di solito si fa la passeggiatina e poi si mette sotto una specie di pensilina metallica che gli prende tutto il segnale, adesso glielo chiediamo. Marco, ma dove sei? A Porto Torres? Sì. No, sono in città, ma sono in un punto completamente chiuso. Oh, in città, e come mai così basso? Segnale non ce n'è, vabbè, non ce ne sarà nemmeno il mio, però almeno, comunque ti sento, io ti sento chiaro, anche se basso ti sento chiaro, calzettina, cosa vuoi che ti dica? Vabbè, dai, io adesso mando avanti a Gianni, ma a Gianni sicuramente non lo sentirai, perché se trovi difficoltà a ascoltare a me e a Massimiliano, figurati se puoi ascoltare Gianni che è fuori Sassari. Avanti Gianni. Ok, Marco Condor, mi senti? Cappa Gianni, fai un passaggio. Eia, eccoci qua, ormai a me mi senti, a Giulio e a Massimiliano no. Non lo so, tu sei Santiago 4 e il QRM è Santiago 2,5-3, quindi tu passi più degli altri. Ma loro sono più vicini, sei capito? Io c'ho anche la montagna, hai visto giù? Io c'ho anche la montagna, Marco, ho da superare. E loro sono più vicini e non c'hanno ostacoli, penso, per Sassari. Mi prendi, Giulio? Ok, è strana la sua, però, è molto strana. Non è possibile. A meno che non se ne è andato sotto la cosa, come si dice, il tunnel che porta lì da quelle parti di casa tua o Gianni, non è possibile. Oh Marco, guarda che mi stai offendendo, mia, sia a me che a Massimiliano. Sto scherzando naturalmente, ci mancherebbe altro. Ui. Non è strano Massimiliano questa storia? Beh, a me mi sembra molto strano, non strano, molto strano che riesci a tirare fuori a Gianni Capri 2, che a me Gianni Capri 2 mi arriva a Santiago 3 qua, e lui che è a Sassari non riesce a sentirmi, comunque là, ora si pure che magari è in zona più, magari per Gianni e per noi è negativo. Io qua a Marco lo ascolto, che il segnale non è proprio zero completamente, la radio sì è comprensibile, però è bassa. Sì, infatti la stessa cosa dico io, il segnale non è, l'ho già detto anche poc'anzi, però la radio già riesco a capire quello che dici. Attento Marco, ascolta, non ci fare questi scherzi per cortesia, cerca di svelare questo enigma, avanti Marco. Allora, io sono in Viale Adua, di fronte a delle poste private che mi fanno battimento zero e segnali bassi. Ho capito, ma ti ha detto che è in via Reano, diciamo che allora se essendo in via Reano in una posizione abbastanza alta è possibilissimo che possa sentire meglio a Gianni, però sinceramente parlando, nonostante tutto mi sembra strano lo stesso. Non è possibile. Massimiliano, allora mettiamo in riga questo Marco. Gli ho dato 50 euro, le ho dato per dire così. Per dire io già, forse gli ho offerto anche qualcosina in più. No, ma è un tiro di schioppo, mi ha capito, sei in quella via e diciamo che ha un tiro di schioppo, magari si incarava il segnale, hai capito, sei nella zona alta, mi se fai il segno è vicinissimo, hai capito giù. Sì, infatti l'ho sottolineato io poc'anzi, essendo in quella zona è possibile anche, perché no, certo, però alle volte è come strana la radiofrequenza, alle volte sembra così eppure si fa degli scherzi che tutto sommato, riflettendoci un attimino, sembrano impossibili, eppure è possibile, d'altronde è così. Vabbè, così è. Oh Marco, allora auguri con quelle 50 euro che ti ha dato Gianni per dire che senti meglio a lui, cosa vuoi che dica? Una pizza stanotte te la sei guadagnata, mi. Avanti Marco. E appena esco dal buco nero già mi sentirete, da. E io sono in macchina che aspetto che qualcuna faccia spese, capito? Devo fare da servo, da autista. Sì, questo sì, d'accordo, l'ho capito, no? Questo è intuibile anche oltretutto, soprattutto pensando che oggi è sabato e dunque è giornata un po' di spesa per tutta la settimana, un po' da parte di tutti. Però la pizza te la sei guadagnata ugualmente, 50 euro da parte di Capri2. Avanti, ma ci vediamo. Positivo, no, volevo capire, Marco, se mi ascolti, ma sulla macchina hai una base magnetica oppure hai l'antenna fissa sulla cappotta e che tipo di antenna è? Non mi ascolta per niente a me, no? Vai tu allora Gianni, ripetilo tu, va. Ok, perfetto, sì. Riprendo io e vi approfitto anche per salutarvi che la 50 mi sta mandando giù. A me mi manda da persona per ove a discount, devo fare adesso. Hai capito, quella salita, 500 metri metro chilometro di salita, con un brutto modo di macchina. Adesso l'ho messo in moto prima con il pulciero, perché è ghiacciata. Ogni sera questa, ora che se lo dice prima, no, perciò le 4:30, così uno si attiva, no, adesso è aperto domani, ma ci servirò qualche per adesso, quindi vi saluto signori. Ciao Giulio, ciao Massimiliano, ciao Marco Fondo, mi raccomando, dopo cena qui, anzi dopo cena no, perché tu sei già a mezzanotte, dopo che sieno io verso le 9, 9 e mezza sono in frequenza. Di nuovo signori, un saluto anche a tutti gli amici in ascolto, faccio il QR10K perché devo uscire. Riprendi il Marco, vai, sì. Va bene, ciao Capri2. Ben sentito e a risentirci. Ti rimando chi arriva più forte. Giulio, avanti. Ok Marco, comunque l'interrogativo che hai fatto tu, Massimiliano, no, lui è in macchina e è alla magnetica, è sulla cappotta della macchina. E dunque per quello anche il segnale è molto scarso, anche per quel motivo lì. Poi c'è anche da dire questo, Gianni Capri2 stava usando il K, dunque una quarantina di watt stava utilizzando, perciò è anche quello, capito Massimiliano? Diciamo che messi insieme tutte queste cose può essere anche plausibile il discorso che appunto abbiamo fatto, che sente meglio a lui e a noi, capito Massimiliano? Sì, Giulio, sì, no, ma poi la posizione da San Marco, lì via Reale, tutta alberata, secondo poi il punto dove è lui, non è che sia proprio l'ideale. Va bene, dai, anche io devo un attimino staccarmi dalla radio, magari. domani, se ci siete riprendo dopo, se no momentaneamente vi saluto, grazie per queste due chiacchiere. Ciao Giulio, ciao Gianni Capri 2 e ciao Marco Condor se mi ascolti. Dai, io passo in QRT. Ok, ma ci vediamo. Grazie anche a te per piccolo questione. Comunque tranquillo, la radio va molto molto bene, è una bella radio, bella, chiara, limpida, forte, dunque meglio di così non so che cosa possiamo pretendere. Va bene, ciao ancora Massimiliano, salutoni, alle prossime, e fatti sentire. Avanti Marco. Io ho sentito che è andato via Massimiliano, ciao Massimiliano, se mi ascolta le prossime, dai. E qua va bene, non è posto da modulare, dai. Ok, vabbè, mi sembra che tu lì, oi, cosa stai tentando? Sto scherzando Marco, ci manca. Ciao intanto Gianni Capri 2, salutoni anche a te, ci sentiamo le prossime se sei ancora all'ascolto. Va bene così, dai. Bravo, anche io stacco perché Massimiliano mi sembra che ha attaccato. Confermi Massimiliano che è attaccato? Sì, ha attaccato. Va bene Marco, dai, anche io stacco. Sono già le 7:25 minuti esatti e dunque tra un po' comunque ci sarà anche, suppongo, Gianni doppio giù in frequenza perché sta per uscire dal lavoro e noi lo sappiamo benissimo che lui si attacca senz'altro al baracchino appena che esce. Bravo Marco, ci sentiamo dopo eventualmente, dai, io stacco per un paio di minuti perché devo staccare per bisogni fisiologici. Ok, Marco, alle prossime, a dopo eventualmente. Ok, buonanotte, buona serata. Marco, ci sei sempre? Attenzione, canale 5, cambio.